Allora, questo tema è molto ampio, adesso dirò solo alcune cose e poi le riprenderò in futuro. Quindi la polis e l'arte di governo della polis, a cosa serve? L'arte di governo serve a generare relazioni armoniche all'interno della polis, ma l'incremento delle relazioni armoniche è un movimento spirituale, almeno nei termini Mancuso, la spiritualità è l'incremento delle relazioni armoniche. Ora, la cosa che a noi interessa è quella da cui siamo partiti all'inizio, l'anima e la Costituzione. Così come l'anima è la Costituzione di una persona, così la Costituzione di uno Stato è l'anima dello Stato. Potremmo anche dire che così come esiste una polis pubblica fatta di cittadini, così esiste una polis interiore fatta dalle parti interne della persona. E Dio governo appunto al compito di guidare queste parti interne a vedere la verità. E la verità cos'è? È quella che è dentro l'anima della persona stessa, perché l'anima della persona stessa contempla la verità, cioè il bene e la giustizia. Quindi dentro, in interiore homine, come ci insegna Sant'Agostino, abita la veritas, e la veritas è questo. In questo modo vediamo che gli strumenti che servono a governare noi stessi e a governare la polis fondamentalmente sono gli stessi. E se andiamo a vedere, sono gli stessi che servono a un counselor nel lavoro terapeutico. Perché il counselor, a differenza di altri professionisti, non ha competenze specifiche. L'ingegnere sa fare i calcoli, il medico sa fare le diagnosi e dare terapie, il farmacista sa dare i farmaci, insomma. Il counselor qual è la sua competenza? La sua competenza nella visione rogersiana, cioè la più pura che esista, la sua competenza è una competenza tipicamente umana, cioè di saper creare le condizioni di facilitazione, creare quelle condizioni che fanno sì che una relazione tra due persone diventi una relazione produttiva, anziché una relazione distruttiva. Quali sono queste qualità secondo Rogers? Beh, secondo Rogers ne ha individuate tre fondamentali che sono l'accettazione incondizionata, che si può anche definire la stima della persona, la genuinità o trasparenza o congruenza, tante diverse sfumature. Essere veramente se stessi, non essere nel ruolo. E la terza è l'empatia. L'empatia significa comprendere le emozioni dell'altro, comprendere i significati che l'altro attribuisce agli eventi e quindi le emozioni che da questo derivano. Ora Rogers ha individuato queste tre condizioni facilitanti che servono nella relazione di aiuto. Queste tre condizioni facilitanti servono in qualunque relazione di aiuto, non solo quella del counseling, anche tra madre e bambino. Quindi queste tre qualità sono comuni agli esseri umani, quelli che funzionano bene nelle relazioni. La differenza tra un counselor e una persona comune è che il counselor ci porta particolare attenzione e si fa garante di svilupparle bene, perché il suo compito è creare questo contesto di opportunità in cui queste tre condizioni facilitanti consentiranno al cliente di trovare la sua strada. Il cliente non trova la sua strada perché, come sappiamo, è intriso di giudizi e i giudizi spaccano la personalità. L'atteggiamento rogersiano è l'opposto del giudizio. Infatti, l'accettazione è l'opposto del giudizio. Accetta la persona così come è. Su questo torneremo in futuro. Vi voglio far vedere come ci sono cose estremamente comuni tra la funzione del politico, che è una funzione facilitante per la polis, la funzione del Dio governo, che è una funzione facilitante della crescita della persona e quindi del benessere e quindi della felicità, e le condizioni facilitanti nel lavoro di counseling. Nel nostro modello del mondo, in Aleph, riteniamo che queste tre condizioni facilitanti sono semplicemente esempi di qualità dell'essere. Quindi in realtà il counselor ha come compito sviluppare e radicarsi nelle qualità dell'essere, o in altri termini, sviluppare un io che diventa servitore dell'anima. E questo è un cammino spirituale, è proprio il cammino dello spirito. E infatti al counselor si chiede di avere queste qualità non solo nel lavoro di specifico della professione, ma il counselor deve avere incarnato talmente bene queste cose, gli deve essere diventato una sorta di istinto appreso. E quindi, dove pratica queste qualità? In ogni contesto della sua vita, in famiglia, con gli amici, con se stesso, nel lavoro, dappertutto. Questo è un counseling che è formato. È molto semplice la cosa. Mentre in passato il terapeuta, nella visione rogersiana, era colui che si ispirava a una teoria. In base a questa teoria incasellava un cliente che diventava paziente, che diventava appunto un caso, e dopo utilizzava delle procedure tecniche che erano coerenti con il caso da trattare. Quindi la focalizzazione era sulla teoria e sulle procedure. Con Rogers, con il counseling, la focalizzazione è sulla persona, non a caso questa si chiama terapia centrata sulla persona. Togliendo il termine terapia possiamo chiamare counseling. Il counseling è centrato sulla persona e non è tanto importante la teoria di riferimento quanto le qualità del counselor, che sono quali? Le qualità dell'essere. Queste devono essere quelle che nel mondo orientale si chiamano le qualità del Buddha, la buddhità. Quindi tutt'altro che pensare al counseling come una professione di secondo livello, è una professione di primissimo livello, che ha una funzione fondamentale nella società di oggi, perché è una società che si è molto allontanata dalle comprensioni di che cos'è l'essenziale dell'uomo, che sono le qualità dell'essere, che sono l'apertura del cuore. Quindi non possiamo pensare ai terapeuti, ai psicoterapeuti come figure di serie A e i counselor serie B, sono entrambi di serie A. Terapeuta dovrà certamente sviluppare anche queste qualità, se non funziona, ma in più ne dovrà sviluppare delle altre specifiche per curare patologie di una certa gravità. Il counselor invece è in grado di prendersi cura delle persone cosiddette comuni, ecco, le quali però nella nostra cultura hanno enorme bisogno di aiuto, immenso bisogno di aiuto per sciogliere che cosa? La sofferenza innecessaria. Quindi la visione del counseling dal nostro punto di vista è una visione spirituale. È anche una visione filosofica, perché filosofia e spiritualità a un certo livello vengono a coincidere. La filosofia antica greca è una filosofia dello spirito. Tutte le grandi scuole greche puntavano a una visione spirituale dell'uomo. Questa è la vera filosofia. Poi sono successe le cose che tutti sappiamo. Adesso il passaggio è, nel nostro modello, in che modo questo è anche politica? Il passaggio adesso lo affrontiamo nel prossimo video.